succedere assolutamente niente, capito? Tutto e vabbè. Comunque, così, bisogna fare bene l'ambulanto, perché sennò tutti si sta caduto. Non credo, via. No, per quelle cose sono molto pignolo. Io l'ho riempito di grasso, l'ho riempito. Il PL. E via, anche quel cavolo di coso. Ma grazie a Dio, vengo che funziona tutto sempre. Non mi dà mai... Ma quando c'è umidità, un pochettino mi salgo, ma non li vado in onda. E anche, secondo me, è anche falso, alla fin fine. Le stazionali che ti dà sono anche un pochettino false, perché alla fin fine l'apparecchio è freddo. No, non va nulla, capito? Lo so, è così, purtroppo è così. Ma solo un secondo, un minuto solo, mi sta chiamando mia moglie. Ehi, eccomi qua. Ehi, capami. Eccomi qua pure a me. A me è questa cosa. Sì. Caricato il coso, l'abitatore. Lo so, c'è un posto. Che l'ho usato e quindi ho venendo a posto. Sto sempre vendieva, mamma mia. Non ce ne può più, proprio così galleggia mia moglie. Se continua così. Sto facendo una vaccinata, cazzo. A Fertilia, lì nella campagna di Fertilia. C'è una casa di campagna, mia sorella tutta la gatta. Non si può manco entrare. Lì a Montanas. Entrata a Borghero, non si può entrare, un casino. Avevo messo, ho fatto un bel porticello, mio nipote, tutto lagato, più la goccia, la barba meccanica per entrare. È galleggiante, è allucinante. Ma se non tanta acqua non porta bene. Dice che fra un pochettino dovrebbe fare un po' di sole. La speranza. Ad esempio domani mi sembra che l'acqua non abbia dato. C'è una tregua. Ma poi lunedì è torra. Siamo da rabbuti a capo. Capito? C'è questa perturbazione poi di aria fredda, di vento, di cose. Lì torniamo in cara da oggi ha fatto. Tra ieri notte e stamattina. Sì, l'ha fatta vedere anche Vidiolina, anche Vidino l'ha fatto vedere da Maria Alghiero, tra la gatta, tra un casino. E poi siamo in Tiricchia. Aspettiamo il tempo buono, mi dispiace tantissimo per quegli amici di Valle Lori e Santa Maria Covina. Ho buttato via centinaia di cose, di migliaia di, come si dice, di un paio di là. Uno ha perso, mi pare che aveva già pronti in partenza una ventina di articolati, ha perso più di 100.000 euro di carciofi da mandare in continente. Mi sa che c'hanno cazzo fa poca, e chi ce l'ha se la fa pagare. Se li ho visti di Itti a 2 euro l'1, alla fattiva non lo avevo io, ho detto vai e finirà, a 2 euro l'1, ce li vuoi, vai e finirà, ho detto, dai diri. Sì, e a voi già le buone più baratti, non ti preoccupare, quando vedete che non ne pigliano, è un casino, è tutto che non fa muoio, roba da chiudere, niente da fare, aspetta che da questo messaggio a vedere chi è. No, Tonino, mi ha mandato la buonanotte, ancora sono fuori, rientrano la prossima settimana. Eia, come stanno? Già stanno bene, già stanno bene. Adesso lunedì mi sembra che lo operano. Che va, meno male, poverino, per stare così, guarda, è meglio che si operi qua. A me sta più bene, più tranquillo. Ah, ma così godo un po' con la pensione, cioè, fra un po' va in pensione pure lui. Mamma mia, queste cose sono male, non lo augura nessuno che venga nessuno proprio. Sono cose cattive perché, cavolo, se sbagli appena appena ci rimane, cioè non riesci più a camminare. Ma certo, è un casino. Sono brutte queste cose qua, purtroppo. Sta rumosa, eppure non è che va giù. Si sta alimentando del normale. L'ho attaccato qua perché va meglio. Cioè, fammi un casino qua. Ma già si intende un po' guarito. Ma... Io. Sto cercando. Non sto cercando. Per quell'altro cazzo, adesso fra un po' caldo mi si goffo, ma c'è un po' la stufa, almeno mi sarà un po' di calore qua, era freddo vera, ma perché qua non è che ci sia tanto freddo, però era appena fatto la doccia e lui dico devo accenderla. Beh, normale, io e tu vai, ci devi andare là, intanto anch'io spengo, sono già le 11, lasciamo un po' acceso qua, mi guardo la TV, se chiama qualcuno, se no... Pazienza, ci sentiamo domani. Sara è già dormita. Ora vai a fare compagnia, vai. Già ci sentiamo domani. Sì, cavolo, dormo poco io, cioè dormo qualche 8 ore e poi sono sempre al massimo. Ok, buonanotte, ce la risentiamo domani. Cioè.